Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Anche il ministro dell'integrazione Andrea Riccardi era intervenuto. Bisogna far luce sulla vicenda, è un episodio di estrema gravità. Così è stato. La questura di Grosseto insieme alla polizia postale ha già individuato i protagonisti di questo video girato con un cellulare. Uno dei due postati sabato scorso su YouTube, rimossi dopo 48 ore e denunciati dal quotidiano Il Tirreno. Il filmato aveva subito fatto discutere perché oltre alla rissa tra ragazzini ripresa nel centro della città si sentivano anche frasi come questa. La negra le busca. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, i giovani coinvolti sono tutti minori, qualcuno anche meno di 14 anni, compresa la ragazzina insultata, figlia di un italiano e di una cubana, pare che avesse già raccontato tutto alla famiglia, ma il questore di Grosseto dubita che possa essere stata vittima di un'aggressione a sfondo razziale. La cosa che più mi ha fatto pensare... Mi rendo conto che l'apprensione nazionale in questo momento è orientata verso ben altre problematiche, però io voglio continuare in maniera tenace la mia osservazione della società, soprattutto tenendo conto di quelle che sono le giovani generazioni, quelle da cui ci aspettiamo la costruzione del futuro. Ormai noi siamo belli che andati nelle nostre convinzioni, nei nostri radicamenti, nella nostra considerazione del mondo che ci circonda. Abbiamo già noi qualche tempo fa osservato alcune evidenti mutazioni nel mondo femminile, dal punto di vista relazionale, sentimentale, della possibilità di amare, di essere amate, nella categoria delle donne ultra 35 anni, ultra quarantenni, che trovavano una grossa difficoltà a trovare ancora uomini adeguati alle loro esigenze, alla loro acquisita libertà, alla loro autonomia. Abbiamo altresì osservato alcuni fenomeni in rete che destano una certa preoccupazione nei genitori, questa compulsiva, radicale, vigliacca, inutilmente crudele maniera di accanirsi contro proprio coetanei da parte di ragazzi molto giovani che costruiscono delle vere e proprie reti di solidarietà per far del male ad altri loro simili. Il fenomeno che invece vogliamo analizzare questa mattina è abbastanza nuovo, se ne parla meno rispetto a altri che riguardano la sfera giovanile, quella del bullismo femminile, quella delle cattive ragazze, è quella di questa nuova, virulenta e singolare maniera di porsi delle giovanissime studentesse di scuola media, liceali, nei confronti dei loro coetanei e anche dei loro coetanei. Il fatto di Grosseto è un fatto che è stato scalpore perché c'è anche una accezione razzistica. Un gruppo di ragazzine picchia una loro coetanea con la pelle più scura della loro. I maschi guardano e filmano e le ragazze fanno a botte. Una totale inversione di ruoli, quasi che ormai rappresentassero la profezia della generazione a venire. Le loro mamme, le loro zie, le loro nonne si lamentano di non avere più uomini, loro diventano le protagoniste della guerra, dell'agone, della tensione, sono al centro dell'arena e come gladiatrici combattono, i maschi guardano e filmano. Calci, pugni, capelli strappati, grida. È la battaglia per la conquista di un cavalcavia in un quartiere di Milano Nord. Si affrontano due bande di ragazze. Lei è stata oggetto di prevaricazione da parte di una serie di bambine molto violente e soprattutto fecero perno sulla sua timidezza e sulla sua bellezza. Colpevole di essere troppo bella, appariscente e corteggiata, tanto da dare fastidio alle altre giovani studentesse che, accompagnate da altri amici, hanno deciso di punirla. Picchiata fuori da scuola, derisa sulle pagine di Facebook, è successo ad una quindicenne di Vobarno, presa di mira da quattro coetanee, pare per questioni d'amore. Un branco composto da ragazzine che hanno picchiato, insultato e ricoperta di sputi una tredicenne colpevole di essere stata cortese con loro. Singolare, perché una volta era nelle tradizioni più arcaiche, più belluine, più legate ai miti ancestrali, gli uomini a contendersi la femmina. Gli uomini che dovevano rappresentare chi di loro fosse il maschio alfa, quello destinato a essere il leader del gruppo, che era il più forte, il più appariscente, il più bello, il più adatto alla riproduzione. Gli uomini si accapigliavano, si scannavano, si picchiavano, si contendevano, le donne guardavano pronte ad essere preda poi del vincitore. Oggi sembra che accada esattamente il contrario. Questo vi fa riflettere, questo vi porta a pensare che il mondo si stia rovesciando, ma io non sono mai preoccupato, non sono mai allarmato. A me i rovesciamenti rispetto ai luoghi comuni, rispetto agli stereotipi, mi incuriosiscono. Ma avete prove concrete nella vostra esperienza personale? Come guardate le vostre ragazze? Come le vedete crescere? Come le vedete relazionarsi? Qual è, secondo voi, il problema? 800 24 00 24. Perché mi sento una bulla, lo sono e basta. Se c'è una persona che magari non mi sta guardando male, però io in quel momento lì vedo che mi sta guardando male, tendo a prendermela con questa persona. Riesco a pretendere delle cose che gli altri non mi vogliono dare, ma magari a volte con la prepotenza ce la faccio. Mi arrabbio, la prendo come una sfida e ogni volta succede sempre che c'è la solita frase che si dice: ti aspetto fuori da scuola. Ci sono quelli che alla fine non si fanno trovare, ci sono quelli che si fanno trovare, succede ovviamente quello che deve succedere. Schiaffi, magari tiro i capelli o mi faccio aiutare dagli altri amici. Mi sento un attimo al centro la capa, boh, al centro dell'attenzione. No, loro pensano che sia una ragazza tranquilla, che va a scuola, studia, non istiga nessuno. Queste sono interviste a giovani bulle che galleggiano sparpagliate nel web, che ormai è un grande centro di raccolta di emozioni, di tensioni, di indicatori delle mutazioni della società. Andare a cercare su YouTube quelle che sono le spontanee pubblicazioni da parte delle giovani bulle, quelle che sono le interviste che gli fanno altri colleghi, dà il segno che qualcosa stia mutando. Luca Bernardo, buongiorno. Luca Bernardo è direttore del Centro di Ascolto per Adolescenti del Fate Bene Fratelli di Milano. Ha scritto un libro, Il bullismo femminile, Cult Editore. Ci sono dei dati su questa mutazione? Qualcosa sta avvenendo veramente? O sono semplicemente piccoli segnali eclatanti che vengono colti dagli organi di informazione, ma in realtà non segnalano una vera mutazione nel genere femminile? No, c'è davvero una mutazione, c'è davvero un incremento di casi ed episodi di quello che è successo a questa ragazza. Cioè le ragazze si stanno organizzando in gruppi di picchiatrici, quindi probabilmente si addestrano, studiano, fanno quella che è la scuola di strada che una volta facevano i giovani piccoli scavezzacollo. Le ragazze della Via Palle ormai sono personaggi come questa che è stata intervistata, che dice alle compagne: ti aspetto fuori, vediamoci fuori. Esatto, voi fate conto che i telespettatori lo sanno ormai oggi, perché è un dato molto comune, molto conosciuto: in metà delle scuole italiane quotidianamente avvengono atti di bullismo e un bullo su sei è donna, quindi immaginate il numero proporzionalmente importante di bulle femmine che dapprima aggredivano ed aggrediscono psicologicamente, oggi come i maschi, probabilmente per raggiungere una parità in senso negativo, aggrediscono anche fisicamente. Può essere che sia un meccanismo di difesa di fronte a un così importante e vessatorio fenomeno? Le prime vittime possibili si sfilano organizzandosi, è una sorta di resistenza delle donne. Vedetela fra voi uomini, siate voi pseudo presunti maschi alfa a prenderla coi più deboli, ma noi ci sfiliamo e ci organizziamo da sole. Un meccanismo di difesa oppure qualcosa di diverso? Lei come la vede? Ma è un meccanismo più di aggressione, nel senso che le bulle, a differenza dei bulli maschi, perché si è sempre pensato al bullo come maschio, ma le bulle femmine hanno un numero importante, sono normalmente ragazze carine, brillanti, divertenti, che quasi non avrebbero necessità di farsi notare, ma invece si creano questo gruppo ed aggrediscono volontariamente chiunque sembri diversa o vengono attirate, quindi il colore della pelle, parliamo di omofobia, parliamo tra parentesi di cyberbullismo, che è l'evoluzione del bullismo, parliamo anche banalmente della scarpa o di un vestito diverso, già può essere modalità di attirare le bulle ad aggredire una ragazza. Beh, è un fenomeno interessante, ci cadono tanti luoghi comuni su questo pregiudizio che le donne comunque siano pronte e capaci a rappresentarci un mondo diverso da come quello che è stato costruito dagli uomini. Il segno femminile si vede nella politica, nell'arte, nella letteratura, sono tutte panzane, le donne sono esattamente come noi, è un grande segnale finalmente di uguaglianza tra i sessi. Sì, un'uguaglianza purtroppo in senso negativo, ma proprio perché sarebbero anche donne leader, sarebbero anche donne che potrebbero avere un futuro diverso, ma rischiano davvero come ragazzi di prendere un percorso anche della delinquenza, per questo sono i dati che ci dicono dopo 17 anni qual è la strada che prendono alcune ragazze. Cioè, dati dicono che poi, diciamo, seguono percorsi di devianza. Esatto, sì, questa è la cosa purtroppo più pericolosa. E ricordiamo che quindi avremo delle giovani donne, delle giovani mamme che per esempio il mobbing non è bullismo, ma per esempio faranno bullismo faranno mobbing sul lavoro, ma comunque si comporteranno magari nella stessa maniera con i propri figli. Quindi stiamo parlando di ragazze che crescono in maniera negativa. Sentiamo Paola. Paola, buongiorno. Buongiorno. Senta, io niente, stavo ascoltando e sono interessatissima perché sono una nonna, ho 58 anni e ho due nipoti. E uno è maschio, uno è femmina. Vedo la differenza proprio di atteggiamento e comunque di rissosità diversa. Cioè, questi bambini hanno ormai... Quanti anni hanno i ragazzi? Due anni. Quindi vabbè, ma lei sta parlando di poco più che lattanti, non mi sembra un po'... Sì, ma lei deve anticipato. Allora, la femmina, quando ha ricevuto il primo morso, il bambino si è messo a piangere, è tornato a casa col suo morso piangendo. Quell'altra, dopo il primo morso, ha imparato a fare due cose che a me fanno ridere adesso a quest'età, ma preoccupano dall'altra. Cioè, come vede un bambino o una bambina che la vuole picchiare, prima fa un urlo tipo guerriero e poi comincia lei a picchiare come una madre. Quindi lei ci vorrebbe far credere che c'è una mutazione genetica in atto, è una nuova stirpe di guerriere o di assatanate picchiatrici che già in fasce dimostrano la loro volontà omicida. Io sono scioccata, da una parte mi fa ridere vedere questa cosa piccolissima, questa mini donna che l'ho vista io, e da una parte adesso fa ridere, però... Beh, c'è proprio un'inversione ormonale, direi. L'aggressività tipica del maschietto è scomparsa, lui già è pronto per andarsi a fare la depilazione totale, lei è già pronta per andare a scuola con l'accetta dentro lo zainetto. Moreno. Sì, buongiorno. Sì. Ma io la penso un po' diversamente, io penso che parta un attimino a posteriori, nel senso... Lei da che osservatorio dice questo? Sì, io penso che... Da che osservatorio dice questo? Lei che esperienza ha del mondo giovanile? Io lavoro con i giovani, io faccio lo speaker in una radio privata e spesso lavoro nelle discoteche. Ecco, quindi lei li vede in azione. Ecco. Sì. Io penso che parta un attimino posteriore, nel senso, sono figli di una generazione di 40, 45 anni, 50 anni. Bravo, sì. Ho spesso a che fare con donne, io sto parlando della mia esperienza, che spesso e volentieri sono arroganti, presuntuosi e prepotenti, e spesso e volentieri sono ignoranti. Ovviamente i figli di questa generazione non può essere diversamente. Spesso queste ragazzine violente, arroganti, prepotenti, spesso e volentieri sono proprio ignoranti. Hanno madri stronze, per dirlo in un termine comprensibile sì, al mondo. Esattamente, non ci può e padri, ne, padri inesistenti. I padri probabilmente sono un po' succubi delle donne che hanno casa. Quindi l'equazione madre stronza più padre senza palle provoca l'esito sì. E la bulla. So scusate, io sto traducendo perché in termini non scientifici per far capire a tutti. Certo. È d'accordo su questa lettura? Sì, io penso che sia forse anche questo qui, nel senso anche parlando, io adesso parlo da single perché sono attualmente single, però anche le persone con cui ho a che fare, le donne con cui ho a che fare, spesso e volentieri, 40-45 anni, 38 anni, non hanno argomenti, non riesce a sostenere una conversazione intelligente. O sono troppo arroganti e sanno tutto loro e non riesce a tenerli testa perché altrimenti sfocia in una lite, o altrimenti sono talmente ignoranti che o parli di vestiti, di sandaletti e di discoteche o non puoi parlare di niente. Dunque, le dico una cosa, una mia cara amica, età media, 35-40 anni, mi ha raccontato sbigottita di essere andata a una festa in cui c'erano molti uomini, dice, la maggior parte degli uomini mi ha circondato e ha cominciato a criticarmi come ero vestita, le scarpe, la gonna, il trucco, il vestito, i capelli. Cioè, questo è stato l'atteggiamento degli uomini nei confronti di una donna single che andava a una festa, ma senza nessuno scopo particolare. Quindi evidentemente le mutazioni di atteggiamento, l'incapacità di elaborazione, l'incapacità di tenere un ruolo nel mondo adulto sta dando questo esito. Professor Carlo Berrone, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Il professor Carlo Berrone è uno psicologo, insegna in una scuola media superiore, ha scritto, coautore di un libro, Il fenomeno del bullismo tra prevenzione ed educazione, edizioni Magi. Lei, come insegnante di scuola media ha sott'occhio e sotto osservazione il passaggio generazionale. Lei parla con le madri, con i padri e vede il fenomeno delle bulle, dei bulli o dei ragazzi che sono vittime di questi qua. È possibile stabilire un rapporto tra generazioni, come diceva il nostro amico DJ? Ma indubbiamente nel contesto sociale attuale c'è un fenomeno di cui si dovrebbe tener conto, parlando anche di bullismo al femminile. Io l'ho rozzamente tradotto per dare dei termini forti e comprensibili. Lei magari può articolarlo in maniera più civile, forse, per far capire se c'è un abbassamento di tenuta del ruolo nei genitori che determina questo fenomeno nei figli. Sì, indubbiamente, come dire, il polo normativo è un po', diciamo, indebolito rispetto al polo affettivo. Abbiamo attualmente delle figure maschili, delle figure paterne molto affettive, molto vicine al mondo delle emozioni dei loro figli, ad esempio questo ovviamente è positivo, quindi c'è stato come un avvicinamento della figura paterna alla figura materna, o meglio alla funzione materna. Si è mammizzato, però, padre. Esatto, però è rimasto un po' scoperto quello che tradizionalmente era il ruolo paterno di fornire una impalcatura molto solida di norme di riferimento alle quali attenersi. Quindi, diciamo, questo polo normativo attualmente è un po' scoperto, probabilmente ci sarà bisogno di un po' di tempo perché si vada verso un riequilibrio di questi due poli. A tutto questo si unisce una tendenza sociale, ma del contesto sociale più ampio, che è quella dell'esibizione del corpo. Il corpo esibito, che viene, diciamo, si viene incitati a esibire il corpo, ad esempio, dalle trasmissioni televisive o dalla tecnologia, che rende molto facile, ad esempio, riprendersi in pose giniche e poi diffondere l'immagine sui social network, ad esempio. Quindi la pressione sociale verso il corpo esibito sicuramente può fornire una chiave di lettura di certi fenomeni, come ad esempio però richiede un'eccellenza performante dal punto di vista fisico, cioè chi non ha un corpo da esibire è uno sfigato, esatto, una sfigata, cioè. Esattamente, per cui accade che lo sfigato, quello che non corrisponde ai canoni dominanti, subisce bullismo. Io stesso, guardi, ho in diretta su un treno viaggiando assistito a un progetto da parte di un'adolescente femmina nel corso di una festa far ubriacare un compagno di classe con un handicap fisico per poi spogliarlo e riprenderlo col cellulare per poi diffondere questo filmato presso i compagni. Mi sta scrivendo adesso un ascoltatore, dice: a Roma, anche nella più blasonata scuola di Roma, l'istituto San Giuseppe de Merode, fuori dall'istituto una quindicenne è stata aggredita e picchiata a pugni calci, i capelli strappati, mentre i maschi filmavano e incitavano. La cosa assurda è che a Roma ci sono delle piazze dove organizzano il sabato sera le ragazze degli scontri, quasi delle attività da gladiatrici, e molte volte lei interviene e vede queste ragazzine che si menano per strada. E l'altro versante è che invece chi ha un corpo splendido da esibire suscita forti invidie, per cui cito anche ad esempio un recente rapporto, una ricerca pubblicata online dalla Onlus Save the Children, sono dati italiani di gennaio 2013 consultabili da tutti in internet, più del 40% di un ampio campione di adolescenti ritiene possibile che una ragazza sia fatta oggetto di cyberbullismo perché è bella. Quindi questo è l'altro versante. Il corpo che non corrisponde ai canoni viene attaccato, ma viene attaccato anche il corpo che suscita invidia per la sua avvenenza. Beh, si entra in un circolo di antagonismo e quindi si è dentro l'arena. È chiaro, certo. Tra le belle poi si combattono. Ce ne può essere una di bella tra le belle, non due. Ma c'è da aggiungere che la tecnologia rende tutto più facile anche alle femmine, nel senso che se nel bullismo tradizionale le femmine avevano presentavano uno svantaggio a livello di forza fisica rispetto al genere maschile, nel mondo online questo non accade più. L'aggressività, diciamo, si misura sulla capacità di saper usare gli strumenti di relazione informatica. Anche lo squilibrio di potere che era tipico della relazione bullo-vittima nel mondo faccia a faccia diventa nel mondo online una capacità e anche ovviamente una volontà di usare con particolare perizia gli strumenti tecnologici. Sentiamo Umberto. Umberto, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, guardi, io le porto una testimonianza che non mi diciamo, non mi piace nei termini in cui la porto, però purtroppo è una generalizzazione che nasce da una constatazione che io quotidianamente faccio attraverso la mia bambina che ha 12 anni. Cioè, tutto ciò che accade a questi ragazzi, a questi bambini a questo punto, ha sicuramente una matrice, cioè quella della mancanza di educazione da parte delle famiglie. Perché vede, ripeto, quando qualcuno prima ha detto che, anzi lei ha detto che queste situazioni sono figlie in linea di massima di madri stronze e di padri senza palle, guarda, io non posso che confermare, perché Realtà, pensavo che vi smentisse. No, purtroppo no, guardi, mi piacerebbe smentirla, vorrei smentirla, purtroppo constato sia nell'ambiente scolastico che nell'ambiente delle, diciamo, nell'ambiente sportivo, per esempio frequentato da mia figlia, o in altre situazioni che sono magari limitate nel tempo, ma che comunque riescono a fruttificare in tal ecco, lei che strumenti dà a sua figlia per salvaguardarsi e sopravvivere, non dico difendersi, sopravvivere in questo clima? No, guardi, io non al momento diciamo, tra virgolette, per fortuna non ho bisogno di dare strumenti a mia figlia. Cioè, intendevo mazze da baseball, cose del genere, ecco, da portare a scuola? No, lei si difende da sola. Quello che mi dispiace... Quindi ha creato anche lei una potenziale cyberbullying? No, ecco, io dico che lei potrebbe esserlo potenzialmente in un discorso di omogeneizzazione ai fenomeni, ma perché tutti questi ragazzi sono in pericolo, anche perché noi genitori abbiamo anche un obbligo. Lei dice la mazza da baseball, ma è un paradosso, gioco con paradossi, chiaro. Ecco, una mazzetta da baseball, almeno di tipo psicologica, devo fornirgliela. Assolutamente, sono d'accordo, degli strumenti di sicurezza anche per la difesa fisica deve averli, non la mazza da baseball, ma almeno, non so, fare un'arte marziale, sapere che comunque di fronte a un possibile attacco fisico da parte dei suoi compagni non si senta sprovveduta, perché se ormai la situazione è così è inutile far finta che non esista. Melog, la realtà condivisa. Cosa accade nelle giovani generazioni? Chi sono le giovani bulle? Perché le ragazzine si sono scatenate, si comportano come maschi? I maschi sono al massimo degli osservatori, degli atti di violenza, delle risse e delle sfide all'ultimo sangue da parte delle ragazzine. La prima lettura che viene dal nostro pubblico, dalle persone che abbiamo interpellato, è che c'è una mutazione in atto nella società, che abbiamo già osservato nella dolorosa richiesta di compagnia maschile, di attenzione maschile, di comportamenti maschili da parte delle quarantenni, 35enni donne italiane, che poi si riversa in delle creature che nulla hanno a che fare con ciò che tradizionalmente intendevamo come ruolo maschile e ruolo femminile. Benissimo, abbiamo le quote rosa anche nelle nostre scuole. Le quote rosa sono quelle che vi fanno neri se le incrociate per strada e non siete, le guardate soltanto uno sguardo che loro non piacciono, non siete adeguate al loro punto di vista, alla loro considerazione estetica. Dario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Quello che è importante è questo qua. Io ho una figlia di 10 anni e già da 2 anni è, non dico vittima, ma assiste ad episodi di bullismo alle elementari. Cioè, 8 anni già c'erano le bulle a scuola. Sì, stiamo parlando di elementari. Mm. Allora io dico... Ma me ne descriva qualcuno per far capire quali sono i dolorosi racconti che vi porta a casa vostra figlia. I dolorosi racconti sono mi hanno preso il righello e il compasso e me l'hanno strappato e me l'hanno rotto. Perché? Perché hanno detto che io faccio schifo. Oppure, cosa hanno fatto? Hanno preso e mi hanno strappato il libro. Poi cosa hanno fatto? Mia figlia, ad esempio, fa la collezione di alcuni oggetti. Hanno preso questi oggetti e me l'hanno buttati via. Perché? Perché hanno detto che così, perché sono sciocca e sono perdente. Non mi devo occupare di queste cose. Cioè, 8 anni già c'è il concetto sei perdente. Esattamente. So, tanto per dirle una cosa, mia figlia la scorsa settimana è andata a fare un'operazione con i missionari e via dicendo. Bambine della sua classe di catechismo le hanno detto non ci devi andare a chiedere le cose per gli altri, perché così sei perdente. E hanno 10 anni. Beh, è chiaro che questa è l'aria che respirano in famiglia. Non è che bravo, nasce con allora, il DNA, il senso, questo senso di cinismo verso allora, il mondo. Io dico, l'atteggiamento che noi abbiamo, io e mia moglie abbiamo... Avete mai provato a parlare con i genitori delle altre ragazze? Bravo, stavo proprio dicendo questa cosa qua. L'atteggiamento che noi abbiamo adottato è questo qua. Nel momento in cui, dopo due o tre episodi che si sono verificati, nostra figlia ci ha riportato questa cosa qua, abbiamo immediatamente chiamato i genitori delle cosiddette ragazzine bulle, anche in questo caso bambine bulle. E cosa abbiamo fatto? Due di loro hanno detto: no, non è possibile, mia figlia, no, non esiste, la parola vostra contro la nostra. Un'altra invece fortunatamente ha detto: grazie per averci avvisato di questa cosa. E la loro bambina, grazie a Dio, adesso è cambiata. Ha un rapporto completamente diverso con nostra figlia. Anzi, è la prima a dare contro a chi, alle altre bambine che... D'altronde le logiche del gruppo sono tali per cui se uno deve sopravvivere, alla fine non a tutti può essere chiesto il senso intrepido di difesa della propria individualità e non adeguarsi al gruppo. È logico che lentamente il gruppo si mangia tutti. Lo so, però la cosa importante, Nicoletti, è il ruolo dei genitori. Lo so. I genitori non devono... Sai che cosa? Io ho riscontrato che a volte ci sono dei genitori che si vergognano di dire ad altri genitori che il loro figlio o la loro figlia è stata oggetto o vittima di atti di bullismo. Molte volte, guardi, è una battaglia persa. Uno si trova di fronte persone con le quali già capisce in partenza non avrà nessun punto in comune. Ho capito, però... Sì, ma poi fa bene. No, è sempre giusto. Uno tenta sempre, ma di solito si tenta, bravo, poi si desiste. Non so perché, ma finisce così. Vittorio. Vittorio. Pronto? Sì. Buongiorno Nicoletti. Sì. Io sono leggermente fuori di tema, nel senso che la mia bambina aveva in prima elementare subito episodi di bullismo. Prima elementare? In prima elementare, sì, maschili. E il problema, quello su cui vorrei focalizzare l'attenzione, però è questo, perché ciò che mi ha veramente disgustato è stato che quando ne ho parlato con le maestre, con il personale, in maniera molto discreta per evitare di sollevare il polverone, capendo comunque che si trattava di bambini, dopo avermi ascoltato pazientemente, la cosa che mi hanno detto è la bambina ha inventato tutto, sicuramente vuole più attenzioni, voi non le date attenzioni. Io dico che poi appena abbiamo cambiato scuola tutti i problemi che erano emersi sono spariti, caratteriali, varie altre cose. È un fenomeno molto comune, la transumanza di scuola in scuola, sperando sempre di trovare qualcosa di meglio, ma alla fine il fenomeno è diffuso, non è che quella uno può capitare in una classe più o meno fortunata, dipende dalla composizione umana delle famiglie che la compongono, è inutile dirlo, è così, però mi rendo conto del problema. Nazarin, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Nazarin. Sì. Dunque, è successo qualche settimana fa che mia nipote, tornando a casa, ha raccontato... Quanti anni? 15 anni, frequenta frequenta la prima liceo. E ha raccontato che due sue compagne sono arrivate in classe portando una bustina di occhi e l'hanno... Cioè, diciamo un antidolorifico. Sì. L'hanno fatto a strisce e l'hanno sniffato davanti agli altri compagni. A una delle due è uscito del sangue dal naso, ha chiesto di andare in bagno, c'è rimasta per quasi tutto il tempo della lezione. E la professoressa non si è accorta di niente, lei è tornata a casa scioccata, ma non è il primo episodio, tutti i giorni sono... Ma cos'è, una sorta di dimostrazione, di iniziazione ad attività brucianti e adulte? Sniffavano l'occhio come fosse cocaina? Sniffavano quello che avevano, probabilmente, non so se l'hanno visto in qualche film oppure a casa, però comunque... non sono ragazze, che detengono il potere in classe, non studiano, ma sono la maggioranza, e quei ragazzi maschi che ci sono stanno a guardare apatici, indifferenti e totalmente così, inermi. Luca Bernardo, ricordo direttore del centro di ascolto per adolescenti del Fate Bene Fratelli di Milano, su questa ultima testimonianza, la creazione di una leadership all'interno della scuola, fatta naturalmente sulla capacità di andare contro le regole, è sempre di più un appannaggio femminile. Questo corrisponde alle storie che arrivano al vostro osservatorio? Sì, purtroppo corrisponde, e quando sentivo parlare di elementari in effetti è proprio così, nel senso che generalmente il bullismo parte proprio dalle scuole elementari. Noi addirittura abbiamo avuto due casi di due bambini di 4 anni e mezzo, quindi si sta abbassando ulteriormente l'età, e come diceva giustamente lei e forse anche il signore in collegamento, comunque il problema parte sempre dalla famiglia, cioè la famiglia è un modello, quello che succede in famiglia il figlio o la figlia porta a scuola. E poi parliamo anche di un'altra mancanza a volte, di quella che è un po' l'autorevolezza che viene a mancare, e quindi non autorità, da parte della scuola. Quindi la presenza di capire quello che sta succedendo o di quello che sta accadendo a questi bambini e porre rimedi in termini preventivi. Non viene a pensare in una classe dove delle ragazze sniffano Loki in maniera idiota, potrebbero tranquillamente sniffare cocaina, l'insegnante continuerebbe a non accorgersene. Assolutamente. Invece il professor Carlo Berrone, ricordo, anche lui psicologo, insegnante in una scuola media superiore, ha scritto un libro sul fenomeno del bullismo tra prevenzione ed educazione. È possibile cominciare a tracciare un rapporto diretto quindi fra ciò che accade in famiglia e questi episodi? E ancora una volta, perché questa prevalenza femminile? Cosa sta accadendo nella società dal vostro osservatorio? Cosa sta mutando? Per cui le donne assumono dell'uomo i tratti peggiori. Abbiamo tutti, ci siamo tutti auspicati una non discriminazione, ma se le donne vogliono essere come gli uomini devono esserlo anche in questa direzione, come gli uomini erano in tempi arcaici e lontani. Sì, come dicevo prima, in questo vuoto normativo che si è venuto a creare nella famiglia contemporanea, l'emersione di un'aggressività, è stata definita aggressività di tipo fallico da parte delle femmine, rappresenta un aspetto particolarmente inquietante. Cioè, Finalmente l'invidia del pene che da 200 anni ossessiona le nostre menti ha raggiunto un suo esito. Ma ci sono degli episodi concreti, solo per far capire, per non fermarsi soltanto a livello della lettura teorica. Lei cosa regge? Quali sono le cose che più l'hanno colpita nella sua emotività degli episodi che ha visto? Ma allora, intanto, per noi parliamo atteggiamento fallico, ma poi voglio sapere in concreto in cosa si concretizza. Diceva una delle ragazze bulle che avete intervistato, di cui avete riportato le interviste registrate, diceva: se voglio un oggetto che mi piace me lo prendo, e quindi uso l'aggressività, la violenza per ottenere un oggetto. Un fenomeno che si coglie quando si, ad esempio, ci si occupa di sportelli di ascolto per adolescenti nelle scuole, è un forte orientamento delle famiglie a tutto ciò che è materiale. Molto spesso gli adolescenti agli sportelli di ascolto portano questo dolore, il dolore di non poter parlare in famiglia di nient'altro che non sia l'oggetto, il vestito, il problema del denaro che c'è in abbondanza o che manca, in entrambi i casi. Oggi onestamente dovrebbe mancare più o meno per sì. Tutti, perché chi oggi non sente la crisi vuol dire che sì, c'è un forte fatturato al nero nel certo. Budget familiare, perché certo, altrimenti non lo capirei. È un momento storico particolarmente duro da questo punto di vista, e appunto i bambini e gli adolescenti portano spesso la mancanza di possibilità di parlare di ciò che conta davvero per loro, che sono le emozioni provate, sono i disagi della vita relazionale con i coetanei, sono le tensioni rispetto al corpo che sta cambiando, che sta assumendo la sua forma definitiva in adolescenza, eccetera. Quindi c'è questo spostamento sul materiale da parte di genitori che, come si diceva prima, sono dei quarantenni. Ci fermiamo soltanto un istante a dare le informazioni del traffico. Mi dice un ascoltatore via Twitter, dice: se i genitori vanno dagli insegnanti a protestare, c'è caso che il rischio è che gli altri genitori, i genitori dei bulli, denuncino questi stessi genitori e gli insegnanti stessi. Melog, la realtà condivisa. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sentivo la radio e non so, io ho due bambini, un bambino di 11 anni e una di 13, e sinceramente però tutto questo discorso che voi facevate mi sembra un po' di proteggere un po' troppo questi bambini, cioè secondo me è logico. Perché proteggere? Io non proteggo nessuno, racconto quello che sta accadendo. Parlo di quello che si sta dicendo, non parlo di lei, cioè parlo in generale di quello che si sta dicendo in trasmissione, di proteggere questi bambini e metterli in una cappa di vetro. D'altra parte la vita è... Ah, quindi no, lei ho capito. La vita è una giungla, giustamente. Dopo c'è indubbiamente singolo caso che va visto meglio, però è una scuola di vita, è giusto che si prendano bastonate, così almeno imparano che vince il più forte. Una legge adesso non parlo di bastonate, io lo radicalizzo, ma schiaffi, pugni. Si parla di, bisogna vedere sempre la situazione quella che è, cioè, però, selezione naturale. Sinceramente, i genitori che ogni volta devono venire perché magari quella gli ha rotto un righello. Cioè non è la morte di nessuno. Il righello abbiamo capito, ma noi stiamo parlando di atti, di atti ormai ripetuti, frequenti, con una tipologia ormai ricorrente, di bande organizzate di ragazzine che operano nei confronti delle altre ragazzine. Se lei si augura che sua figlia si faccia parte della banda delle vincitrici, è un altro discorso. Io questa cosa un po' mi preoccupa. Io sono d'accordo, non mi ha allevato figli mollacchioni, ho sempre detto sbrigatela da solo, ma qua è mini delinquenza organizzata, è un'altra cosa, secondo me. Vabbè, se si parla di delinquenza, non sono un buonista, penali, indubbiamente. No, penali, sono bambino, non è penali, si tratta di un atteggiamento. Penale nel senso di lasciare il segno. Lei ha figli, Antonio? Lei ha figli, Antonio? Io ho due figli, un figlio di 11 anni e una figlia di 13, e mi capitano questi gesti di bullismo, chiamiamoli bullismo, da parte di altri bambini che vogliono essere più, come dire, più presenti, più vogliono essere più, però non, senso, ne parlo con mia figlia, cerco di dargli degli strumenti. Beh, evidentemente sua figlia non è stata mai vittima di una, lo sa cos'è? Subire il bullismo vuol dire essere vittima di un'azione generalizzata da parte di tutta la classe, di un gruppo forte, che ti crea una situazione insopportabile. Se sua figlia fosse vittima di bulli, sua figlia non vivrebbe, sua figlia l'avrebbe chiusa in camera, la vedrebbe piangere tutto il giorno, la vedrebbe insicura, la vedrebbe non studiare più, sarebbe molto diverso. Non è la normale dialettica fra giovani nei quali è giusto che i genitori non mettano mano. Questo è un atto di violenza, qualcosa che muta radicalmente la felicità di sua figlia. Se sua figlia è felice vuol dire non è vittima di bulli. Non si tratta di semplice, io stavo solamente rispondendo alle tante telefonate che ho sentito di genitori, e mi sembrava che tutti questi genitori non avessero questi casi di bullismo che lei sta descrivendo. Mi sembrava che fossero tutti fenomeni di bullismo che potevano essere tranquillamente lei dice c'è una apprensione in famiglia. No, in questo Antonio. Antonio, non stiamo generalizzando. Io do spazio alle persone come a lei di rispondere. Può essere che lei abbia intuito in qualche telefonata un eccesso di ansia. Il genitore che si preoccupava che a 2 anni rompono un righello alla figlia forse era effettivamente ansioso e vedeva una situazione che ancora non si era ben definita. Poi vediamo, proprio per evitare fraintendimenti. Luca Bernardo, cosa intendiamo per bullismo? Perché sennò confondiamo. È la normale irruenza dei ragazzini, per i quali non bisogna nemmeno essere troppo presenti, troppo ansiosi, con gli atti di bullismo. Facciamo una distinzione, sennò passiamo per generalisti o per allarmisti. Allora, atto di bullismo vuol dire un atto continuato, reiterato e continuativo, quindi non è un singolo atto, quello è atto di bullismo. Però io volevo intervenire prima, perché ho sentito parlare il papà e sono d'accordo con lei. Io assolutamente non sono d'accordo su quello che diceva, cioè di minimizzare anche la rottura di un righello, perché purtroppo con questo atteggiamento, mi spiace dirlo a un papà, noi poi vediamo i casi di vittime che dal righello partono con tante altre cose, perché i dati ci dicono che i bulli sono tanti, le vittime sono ancora un numero superiore e si parte da piccole cose, perché non è che rompono il righello e finisce lì. Rompo il righello dicendogli determinate frasi. Sei un perdente, esatto. Questa è la frase che mi ha colpito. Io credo che i genitori devono essere coinvolti assolutamente, perché se noi giriamo ogni volta la testa non riusciamo mai, non dico a intervenire sull'atto, ma preventivamente. È chiaro, se la filosofia di famiglia è il mondo è di chi vince, tu devi essere fra quelli che deve vincere e guai se tu perdi, quindi non devi guardare in faccia a nessuno, è chiaro che si comportano rettamente secondo gli insegnamenti familiari. Enzo, buongiorno. Buongiorno, sì. La ringrazio per avermi chiamato. Io volevo intervenire, sono un papà di 2 bambine, una di 13 e una di 16 anni. Quella più piccola soprattutto spesso viene a casa e mi dice che anche l'ultima volta una sua amichetta si è rotta le vene, così per ai genitori, così tra l'altro. Separati. Come si è rotta le vene? Si è tagliata le vene? Con la matita, chiaramente. Non a scuola? Non ha simulato un suicidio, ecco, come quella Sniffalochi, questa si taglia le vene con la matita. Con la matita rossa, così sembra che esce il sangue. Sì, però è in questa pantomima di atteggiamenti estremi è altrettanto preoccupante. Professor Carlo Berrone. Sì, certo, sono comportamenti di imitazione, probabilmente di scene colte in spettacoli televisivi o cinematografici. Mi colpiva molto l'intervento del padre che diceva in qualche modo i figli devono imparare a cavarsela da soli. È un potenziale padre di bulli, per essere chiari. E diciamo che il bullismo è una questione di potere. Il bullo desidera la gratificazione del potere che ottiene prevaricando la vittima. Io ti rompo il righello, dimostro di essere più forte di te e questo mi procura piacere. Al piacere si rinuncia con difficoltà. Beh, un atto di sadismo precoce, diciamo. Certo. E anche il sadico provoca piacere nel possesso totale di un'altra persona. Sì, la dominanza, diciamo. Quindi il piacere è una gratificazione. Alla quindi non ci lamentiamo se poi le sfumature di sfumature di grigio diventano il best seller di tutte le mamme del mondo. Modo sì, non so se fosse un po' azzardato fare un collegamento di questo tipo, però è nell'aria, riflette l'aria del tempo sicuramente, per cui come chiedere a un bambino, un adolescente, di rinunciare al piacere del potere? Ecco perché è sbagliato. Beh, dire, facendogli capire di piacere ce ne, certo, sono tanti, esattamente, certo, però intendevo dire quanto sia proprio nocivo e foriero di pericoli evolutivi il ragionamento del padre che è intervenuto poco fa, cioè lasciamo che se la cavino in qualche modo. Dico onestamente, è il tipico padre che non vorrebbe mai trovarsi davanti quando va a scuola a parlare di un figlio che ha subito qualcosa, un padre anche dice ma lasciamoli stare, non sa qual è la sofferenza profonda di un ragazzo che una ragazza subisce bullismo, è una cosa lunga, si scopre dopo mesi, dopo anni. Certo. E poi ricordiamoci che è uno dei luoghi comuni che gli adulti purtroppo ancora tendono a condividere sul bullismo, cioè che per una qualche forma di maturazione biologica passerà. In realtà sappiamo che chi è bullo frequente in età infantile e adolescenziale tenderà a diventare un adulto aggressivo, magari anche nella coppia amorosa, quindi un individuo che prevaricherà il partner o la partner, così come chi è vittima in modo ripetuto, frequente, da bambino, da adolescente, potrà essere molto più probabilmente di altri un adulto con problemi di bassa autostima. Fermiamoci qua, la sigla ci taglia, grazie, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.